GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Una brutta Fiorentina lascia la Coppa Italia. Il Torino vince a Firenze con un gol di Rolando Bianchi e va ai quarti, dove troverà la Lazio. Solo nel finale invece la Roma riesce a superare il Bologna all'Olimpico con una doppietta di Mirko Vucinic, entrato nella ripresa e poi uomo del match con i gol segnati al 38esimo e al 41esimo. Serata europea senza particolari obiettivi invece per il Milan, che già qualificato per la fase a eliminazione diretta di Coppa UEFA riceveva i tedeschi del Wolfsburg, che vincono il loro girone grazie al 2-2 finale. Ambrosini e Pato a segno per i rossoneri, ma la brutta notizia vera arriva ancora una volta dall'infermeria. Si è fatto male di nuovo il difensore Senderos, uscito dopo soli 3 minuti per problemi alla schiena. Oggi, sempre in Coppa UEFA, toccherà la Sampdoria, che dovrà conquistarsi la qualificazione ai 16esimi. Deve almeno pareggiare con il Siviglia a Marassi. Lasciamo il calcio per la Formula 1. Formula 1 dell'anno che verrà, la Formula 1 figlia della crisi. Argomento attualissimo. Ne ha parlato il presidente della Ferrari, Luca Di Montezemolo, che valuta così gli accordi raggiunti tra la Federazione Internazionale e l'Associazione dei Team. Sentiamo Montezemolo. Siamo riusciti per il 2009 a dare un segnale molto forte di riduzione di costi. Pensate che per i costi di motore stiamo parlando del 50% in meno in un anno. A impostare il 2010 e il 2011 in modo che sul 2012 avremo una Formula 1 completamente nuova, ridotta nei costi, quindi tornare ai primi anni 90, però di grande competizione, mantenendo non il motore unico ma una sana competizione tecnologica, perché noi non siamo sponsor, siamo costruttori, e sportiva. E lasciando spazio ai piccoli e alle grandi squadre, quindi credo che siamo riusciti a fare bene. Ma delle grandi incertezze degli sport motoristici ha parlato ieri, alla consegna dei collari d'oro, anche Valentino Rossi, che non crede al ritiro della Honda dal moto mondiale. Valentino Rossi. Gli sport motoristici sono degli sport che costano tanto, soprattutto la Formula 1 e la MotoGP, quindi bisognerà cercare di fare in modo che rimangano abbastanza macchine, abbastanza moto per fare una bella cosa, un bello spettacolo. Ecco. Secondo me la Honda dalla MotoGP non si ritira. Nell'Eurolega di basket, ottava giornata, Siena giocava a Barcellona per il primato nel suo girone, ma ha trovato la prima pesante sconfitta stagionale, la seconda in Europa, 87-61, sconfitta che naturalmente non pregiudica il passaggio del turno per il Montepaschi. Resta in vita l'Armani Milano, che batte 73-59 il Partizan Belgrado e può continuare a sperare nel passaggio del turno. Deve però vincere le due partite che restano. Dopo la pausa natalizia arriva il Real Madrid, che ieri sera ha vinto sul campo dei campioni d'Europa del CSKA Mosca. Infine la grande box torna a Milano, 3 titoli europei in palio domani sul ring del Palalido. Nella categoria superleggeri Gianluca Branco difende il titolo dall'assalto del finlandese Tolpola e già sogna il mondiale, come conferma al microfono di Dario Ricci. Il mio manager sta lavorando per me, per farmi disputare un campionato del mondo dopo questa difesa, sperando che va tutto bene. Abbiamo la possibilità di rifare il campionato del mondo. Non si sa se farò un salto di categoria, quindi nei welter, però febbraio-marzo ci sarà un mondiale, ecco, una nuova chance mondiale. È tutto per questa edizione di GR Sport, di nuovo buona giornata a tutti.